sicuramente la guerra nel Nord Uganda è la classica guerra dimenticata. Io parto dal presupposto che vi siano due tipi di conflitto nel mondo, non quelli a bassa risoluzione o alta risoluzione. Ci sono conflitti di serie A e conflitti di serie B. I conflitti di serie A sono quelli che sono sotto la cosiddetta copertura mediatica, l'ombrello mediatico. Pensiamo alla crisi irachena, a quello che è accaduto tra il Tigri e l'Eufrate. Per carità, anche quella è una tragedia indicibile, ma con una concentrazione di colleghi, professionisti, giornalisti, freelance, a dir poco indicibile. Migliaia di loro che seguivano istante per istante quello che succedeva da quelle parti. Dall'altra vi sono i conflitti dimenticati, che a mio avviso non sono affatto meno cruenti, basterebbe pensare, non so, al conflitto nella Repubblica Democratica del Congo, dove dal 2 agosto del 98 ad oggi, nonostante gli accordi di pace, comunque sono morte 3 milioni e mezzo di persone. E la guerra, nonostante la firma della pace, purtroppo continua ancora nelle regioni orientali. Ma direi che la situazione nel Nord Uganda è un po' la cartina di tornasole di quello che succede nei Grandi Laghi e ci può aiutare davvero a capire e comprendere che cos'è una guerra di serie B. Dicevo prima, mancano i giornalisti, cioè non vi è una copertura mediatica, non vi sono ogni tanto alcuni freelance, alcuni così inviati, ma si tratta di presenze così, di una sporulazione così, direi così marginale, saltuaria. Adesso non vorrei essere frainteso, ma io ritengo che la notiziabilità dal sud del mondo c'è tutta ed è un prodotto che potrebbe essere venduto, nel senso che la gente, a mio avviso, è interessata. Nel senso che non solo ci sono solo 14.000, io penso agli italiani, 14.000 missionari che lavorano nel sud del mondo, ma poi ci sono associazioni, gruppi, movimenti, ci sono milioni di italiani che vorrebbero sapere che cosa succede nel Congo, in Uganda o in qualche altra remota periferia del mondo, villaggio globale.